Che casino sto posto. Quanta gente c'è qua? No, non ce la faccio più, devo scappare. Devo scappare. Da questa gente io mi sento differente. Differenze nel pensare, differenze nell'esprimere quello che questa città grigia ci trasmette. Io vedo ormai il futuro di questa gente fatta a fette. Sono molti oggi chiusi nei negozi a spendere soldi. Fanno a gare ora in colonna, quando arrivano poi saldi, spendi e spandi. Vestiti fuori moda, poi li cambi. Segui la moda, imiti lo stile della foga. Non sei originale affatto. Tu sei copione che da me del matto. Io ti sfratto e come un gatto farebbe al topo. Graffio il tuo ritratto con viso soddisfatto. In mezzo a questa gente sono un faro lampeggiante. Non riesco a stare zitto in questo stress ormai pesante, schiacciante. Sono solo un mucchio di vocali e un elefante in cerca della nuova consonante assordante. Domani al tuo risveglio io sparisco. Scrivi a chi l'ha visto e ti diranno che in mezzo a questa gente io non gente ci sto. In mezzo a questa gente io non ci sto. In mezzo a questa gente io non ci sto. In mezzo a questa gente io non ci sto. Truffatori, estrattori, attori e presentatori. Persone false intelligenti di molti colori. Quelli che ti dicono non farci la spesa, risparmi anche domani per la carica alla chiesa. Mentre loro con i soldi vanno in giro per il mondo, viaggi e vacanze al mare in posti come in un bel sogno. A 15 anni io vedevo i miei coscritti vuoti e spenti. Rigare sempre dritto camminando sugli attenti. E poi ti inventi un modo per fuggire dalla scuola. Oggi sto poco bene, vado a casa e il mio cervello non funziona. Stona in mezzo a questa gente. Sto grembiule nero come gli altri, sento che non più mi dona. E allora scusate se mi assento, mi sto annoiando, faccio finta di essere contento. In quest'Italia tra la gente sai c'è poca serietà. Le persone qui si affidano alla televarietà. I miei vicini e i loro amici incollati a un reality show. Io a queste cose non ci credo neanche un po'. In mezzo a questa gente io non ci sto. In mezzo a questa gente io non ci sto. In mezzo a questa gente io non ci sto. In mezzo a questa gente qui mi dicono che io non sto mezzitto. Difendo il mio diritto quando poi li vedo slitto. Giudizi e pregiudizi ormai li sento tutti i giorni. Infami che nascosti fan casino come storni. Non li puoi distinguere, sono tutti uguali. Falsi e bugiardi anche gli amici più speciali. La mia donna io la voglio trasparente come un foglio. E che mi sia fedele e mi guardi con orgoglio. Passeggiando per il centro vedo tipe tutte in tiro. In giro sfilate magiche da capogiro. Respiro, le miro, le attiro, le tengo sotto tiro. Per loro ci vorrebbe un bel tapiro. Poi penso a casa con la mia arena, le stiro. Un funerale per le belle più vuote di un cestino. Temino, temeno, se parli t'avveleno. Sono il capo, il boss del quartiere, l'uomo vero. Ma quanto son pagliacci mafiosetti di quartiere. Mi fanno solo pena, son perdenti, io penso a scrivere. In mezzo a questa gente io non ci sto. In mezzo a questa gente io non ci sto. In mezzo a gente io non ci sto. In mezzo a questa gente io non ci sto. 2006, il barbaro. Truffatori, estrattori, tutta la gente falsa. E in giro ce n'è tanta. Ok, ciao bello.